sono dedicate alla, all'esame dei rapporti tra il film Blade Runner e il romanzo da cui questo film è tratto. Cioè andiamo a vedere su di un esempio concreto come certi temi, certe situazioni si presentano in una forma comunicativa come un romanzo, cioè sulla pagina scritta, e come vengono trasformate poi in film. Per fare questo vorrei prima brevemente inquadrare il personaggio, l'autore del libro, che è uno scrittore di fantascienza abbastanza importante, anche se non è così famoso come altri, ma voi sapete che questo a volte succede, che la gente più interessante non è sempre quella che ha maggiore successo, insomma. Allora, per chi non è un lettore abituale di un genere come la fantascienza, per esempio, non lo so, il nome di Asimov gli sarà sicuramente noto, mentre quello di Philip Dick probabilmente meno. Questo personaggio si chiama Philip Dick. Ah, prima vorrei fare un piccolo test. Vorrei sapere di voi quanti hanno visto il film Blade Runner, suppongo tutti. Però c'è qualcuno che non l'ha mai visto, Non tutte le mani sono alzate. Giù le mani, grazie. Facciamo una controprova, vediamo chi è che non ha visto Blade Runner. Ammazza, ragazzi, oh. Come siete sopravvissuti finora? Sì? Non lo so. Ho dei dubbi. Ai ai ai. Vabbè. Io ho scelto questo film anche perché, siccome so che è diffusissimo, insomma. Poi è un film importante, vi dirò dopo perché, ma forse lo sapete già per conto vostro. E quindi speravo che almeno dalla parte del film fossimo scoperti. Adesso invece facciamo... Cosa stanno facendo là di fuori? Adesso facciamo un'altra prova che so invece che andrà in maniera parecchio, diciamo, diversa. E quanti hanno letto il libro da cui è stato tratto il film, che si chiama Il cacciatore di androidi? Nessuno l'ha trovato. Tu l'hai letto? Ma l'hai letto anche? Allora, una sola persona ha letto il libro, per quello che... Nessun altro l'aveva mai letto prima. Allora facciamo l'ultimo test per vedere quanti di voi conoscevano il nome dell'autore del libro prima di leggerlo su questo corso. Una persona, due. Beh, molto interessante, okay. No, io non mi abbatto, figuriamoci. Allora, fine del test. La persona in questione, sapete come si chiama? Ve l'ho detto, Philip Dick. Volete che ve lo scriva? No, è chiaro. Philip Dick. Il cognome è un po' una parolaccia in americano, ma insomma lui se l'ha tenuto per tutta la vita, quindi. Dunque, Philip Dick è nato nel 1928 a Chicago ed è morto in California nel 1982. Ha cominciato a scrivere fantascienza nei primissimi anni 50. In realtà lui aveva già scritto una serie di libri precedentemente, una serie di romanzi che erano rimasti nel cassetto, nessuno glieli aveva pubblicati, e sono stati pubblicati negli anni immediatamente dopo la sua morte, sono stati trovati fra le sue carte. Sono romanzi non di fantascienza, ma sono altrettanto bizzarri, insomma, come se fossero dei romanzi di fantascienza. Quando Philip Dick cominciò a scrivere e a pubblicare, lui appunto aveva già scritto, poi è uno che ha fatto nella sua vita un sacco di stranissimi lavori, ha fatto il commesso in un negozio di dischi, ha fatto disc jockey, era un personaggio che amava moltissimo la musica, infatti la musica compare spesso nei suoi libri, sia musica classica che musica leggera dell'epoca. Addirittura ci sono alcuni romanzi che sono imperniati sulla figura di cantanti immaginari, Nei suoi libri compare spesso la figura di un disc jockey che orbita intorno ad un pianeta e attraverso le sue trasmissioni riesce a tenere unita della gente che altrimenti sarebbe disunita. Insomma, quindi la musica era un fatto importante nella sua vita. Quando lui cominciò a scrivere, la fantascienza nei primi anni 50, lui prima aveva scritto questi strani romanzi qua, poi a un certo punto scoprì che scrivendo questo genere di cose un po' appunto semi-tecnologiche e fantastiche, qualcheduno gliele pubblicava, cominciò a pubblicare qualcosa sulle riviste dell'epoca. Negli anni 50 negli Stati Uniti le, diciamo, riviste, in particolare per le letterature popolari tipo la fantascienza e il giallo, avevano un'importanza molto maggiore di quella che hanno adesso. Oggi sì, ci sono ancora ovviamente le riviste, ma sono meno diffuse di prima, la gente, molta gente pubblica direttamente dei libri senza passare attraverso le riviste, ma un tempo non era, diciamo così, c'era a volte anche un lungo apprendistato prima di cominciare a pubblicare libri. Addirittura prima degli anni, diciamo, 50 non esistevano dei veri libri, né di fantascienza, né di giallo, né di cose di questo genere. C'erano solo queste riviste da poco prezzo, stampate su carta bruttissima, che si chiamavano pulp, e che hanno formato generazioni e generazioni di lettori. Se ogni tanto, se siete degli spettatori attenti di film e guardate il film di Spielberg, ogni tanto trovate che qualcuno di questi ragazzini che Spielberg mette in scena sfoglia delle rivistine, delle cose, eccetera. Ecco, sono questi pulps, queste bruttissime riviste, bruttissime, insomma, nel senso che hanno un gusto un po' grossolano. Spielberg è un grande fan dei pulps e della, diciamo, fantascienza delle origini, insomma, si vede dal tipo di film che fa, no? Bene, allora, negli anni 50 però era già, come dire, cominciata una trasformazione sia dei temi della fantascienza che del mercato della fantascienza. Da un punto di vista del mercato cominciavano allora in quegli anni appunto ad apparire i primi libri, naturalmente libri tascabili, paperbacks. Bisogna sempre tenere presente che negli Stati Uniti il mercato dei libri rilegati, i hardcover come si chiamano, è nettamente separato, molto più che non qua da noi, da quello dei libri appunto economici, no? I paperbacks. E un libro non ha praticamente successo se non vende in paperback. Negli Stati Uniti i libri rilegati se li comprano quasi soltanto le biblioteche o alcuni bibliofili, eccetera. Quando escono i libri rilegati hanno tirature bassissime per gli Stati Uniti. Dopodiché in genere, grosso modo adesso le cose stanno così, che prima esce il libro in hardcover, poi dopo un anno, due, sei mesi, eccetera, esce in paperback, oppure a volte esce direttamente in paperback. Insomma, comunque questo mercato dei libri, che oggi è così fiorente anche nella letteratura di genere, cominciava appena allora, ripeto, negli anni, diciamo, 50. Questo dal punto di vista del mercato. Le primissime generazioni di lettori di fantascienza, che negli anni 20 e 30 erano prevalentemente degli adolescenti, dei ragazzini proprio, dai 12 anni ai 18-19 massimo, poi in genere smettevano quando uno era arrivato adulto, leggeva, come si diceva, cose più serie, tranne qualche matto che ovviamente continuava a, diciamo, leggere anche quando era adulto. Verso gli anni 50 invece già c'era un pubblico di persone più grandi che leggeva questi libri, o gente che l'aveva letti in gioventù che continuava a leggerli, oppure anche gente che cominciava a leggerli non proprio quando era, diciamo, adolescente, ma un po' dopo. Quindi c'era stato un allargamento del, diciamo, mercato dal punto di vista anche numerico e dal punto di vista delle classi di età. Per quanto riguarda i temi poi c'era stata una grande cosa di mezzo, insomma gli anni 50 voi sapete benissimo vengono dopo una cesura della storia mondiale che è la Seconda Guerra Mondiale, e dal punto di vista, per quanto ci interessa, diciamo da un fatto sconvolgente, traumatico sia per la vita diciamo reale che per l'immaginario, che si produsse l'8 agosto del 1945 sopra due città giapponesi. Parlando sempre di film, se voi avete visto il bellissimo film di Spielberg, L'Impero del Sole, chissà chi l'ha visto, non lo so, io non so mai cosa avete visto, se capisco. Chi l'ha visto, chi non l'ha visto, pazienza. Vedrà, dunque, L'Impero del Sole racconta l'infanzia di un altro grande scrittore di fantascienza inglese, questa volta, James Ballard, che era inglese ma era nato a, diciamo, Shanghai, e nel 1941 si era trovato in mezzo alla guerra in Cina, aveva trascorso 3 anni in un campo di concentramento giapponese. Nell'Impero del Sole, che è un libro di Ballard e poi un film di Spielberg, si racconta appunto l'infanzia di questo ragazzo, eccetera. Cioè, c'è il clou del libro, insomma, la scena culminante del libro e quindi anche del film, si ha quando Jim, il ragazzino appena liberato dal campo di concentramento, sta in un grande stadio, che ci sono delle immagini bellissime con tutti questi oggetti, una specie di replay del mondo che c'è stato una volta e che non ci sarà più da quel momento in poi, e lui vede una grande luce, vede questa grande luce nell'alba, la scambia per il sole che aveva visto sorgere tante volte nel campo di Lunghua. Invece questa luce non è il sole, è il riflesso, o perlomeno lui pensa così, come saprà più tardi, della bomba, delle due bombe di Hiroshima e di Nagasaki. La bomba cambiò la vita di tutto il mondo, cambiò i rapporti di forza tra le nazioni, ma cambiò anche l'immaginario della gente, il modo di vivere, eccetera. Dopo la bomba non era più possibile, era molto più difficile scrivere la fantascienza ottimistica, ingenua, che si scriveva negli anni 20, 30 o nei primi anni 40, dove c'era questa idea che la scienza potesse praticamente risolvere tutti i problemi dell'uomo, che si fosse avviati verso un grande futuro di stabilità, di prosperità, eccetera, eccetera, e soprattutto in cui le macchine potessero risolvere una volta per tutte almeno la gran parte dei problemi dell'umanità. Un riflesso di questo modo di pensare degli anni 30 e degli anni 40 si ha nella sua forma migliore proprio nei racconti sui robot di Asimov, almeno nei primi racconti di Asimov scritti appunto fra il 41 e il 43, in cui Asimov arriva per ultimo, però essendo molto bravo, molto dotato, eccetera, riassume molti dei temi degli anni precedenti, gli dà un'impronta personale. Però nei racconti di Asimov sui robot che cosa si vede? Si vedono, sì, robot, queste macchine che si guastano. Dunque, del robot abbiamo parlato già le volte scorse, quindi grosso modo sapete. La cosa strana è che il robot veniva fuori da una tradizione, quella del golem, quella dei robot di Čapek, ne abbiamo parlato. Quindi nella cultura alta l'uomo artificiale aveva sempre un segno di crisi, un segno di contraddizione, segnalava degli abissi nella coscienza dell'uomo comune. Quando invece poi questa figura passa nella letteratura popolare, nei primi tempi assume un segno diverso, è invece in tutto sommato una figura in qualche modo tranquillizzante, pacificante. Sì, ci sono dei problemi, dice Asimov, questi robot si guastano, possono creare casini, però c'è insita nell'anima del robot, quella che Asimov codificò con le ormai famose, per chi legge fantascienza, le 3 leggi della robotica, secondo cui il cui succo è in pratica che un robot non può fare mai del male ad un essere umano. Infatti Asimov disse poi più tardi che lui aveva cominciato a scrivere questi racconti proprio per controbattere quella che lui appunto definì la sindrome di Frankenstein, cioè la paura di fronte alle macchine, che le macchine potessero un giorno sostituire l'uomo, cambiarlo o comunque fargli del male in qualche modo ribellandosi a lui. Bene, questa era vado per grandi schematizzazioni, forse non è neanche vero perché c'erano anche gli altri scrittori negli anni 40, ma insomma prevalentemente il clima fino agli anni 40 era stato questo, quindi di una fantascienza, ripeto, un po' ingenua, ottimistica, quella che, usando un termine inappropriato perché si riferisce a epoche e a periodi della storia della cultura precedenti, ma si potrebbe chiamare un clima positivistico, cioè un clima di fiducia ingenua nella scienza e nella tecnica. Il positivismo in realtà dal punto di vista filosofico era già bello che finito con la fine dell'Ottocento, ma certamente nella cultura popolare ci sono sempre delle diversità, dei ritardi in un certo modo. Quindi gli anni 20 e gli anni 30 sono praticamente, gli anni 30 soprattutto, prima della crisi del 29 con il crollo della borsa di Wall Street, quindi gli anni 20 in qualche modo hanno come segno prevalente, perlomeno in certi strati, appunto, ripeto, questo ottimismo ingenuo. Bene, dopo la bomba non è così, e la cosa si riflette anche fra gli scrittori di fantascienza. Negli anni 50, quindi, fra l'altro cambiano anche le riviste, le riviste degli anni 20 e 30, soprattutto le due grandi riviste che erano Amazing Stories, storie sorprendenti, e Astounding Science Fiction, cioè fantascienza stupefacente, declinano e viene fuori una nuova importantissima rivista che si chiamava Galaxy, e nella quale cominciano a fare il loro ingresso degli autori che hanno un modo di scrivere, di trattare i temi diverso da quello degli anni passati. In che cosa consiste questa, diciamo, diversità? È quella che verrà poi chiamata dagli storici della fantascienza successivi la social science fiction, che si è letto, si è tradotto in italiano come fantascienza sociologica, sarebbe fantascienza sociale più che altro. Si tratta soprattutto di autori che fanno, a differenza che nel periodo precedente, una satira sociale, cioè utilizzano i temi della, diciamo, fantascienza, il viaggio nello spazio, il viaggio nel tempo, le macchine, i robot, eccetera, come per satireggiare le tendenze contemporanee della, diciamo, società di allora. Dietro a questi testi popolari ci sono alcuni testi, ci sono alcuni romanzi inglesi scritti addirittura qualcuno negli anni 30, qualche altro nel primissimo dopoguerra. I due nomi che si devono fare sono quelli di Aldous Huxley, che aveva scritto il Brave New World, il mondo nuovo, nel 32-33 in Inghilterra, e George Orwell, che aveva scritto, che aveva pubblicato nel 1948 un romanzo che penso molti di voi conosceranno, che è 1984. Alcuni anni fa c'è stato nel 1984 davvero, quando è, diciamo, venuto l'anno del libro, c'è stata una serie di celebrazioni, quindi forse alcuni di voi se ne ricorda anche se era giovane. Entrambi questi due romanzi, sia quello di Orwell che quello di Huxley in maniera diversa, dipingevano un futuro abbastanza angoscioso, non un futuro di ottimismo, di tranquillità, eccetera. Addirittura quello di Orwell, non so se qualcuno di voi ha letto il libro o ha visto qualcuno dei bruttissimi film che ne sono stati tratti diversi film, ma non molto buoni, direi. Forse il film migliore tratto dal 1984 è un film in cui 1984 come opera non figura nei titoli di testa, ma che chiaramente è ispirato a quello, e che è il primo film in assoluto di George Lucas, che poi voi forse conoscete come, appunto, regista di guerre stellari e come produttore di una serie di altre cose. Questo film si chiama THX 1138, Fuga dal futuro, ed è un film con uno straordinario Robert Duvall che fa, e lì c'è una, diciamo, società futura tutta di uomini bianchi, tutta la gente vestita di bianco, eccetera, praticamente in cui la tecnologia serve come supporto per un controllo totalitario della insomma, gente, no? È un film che ha girato, cioè non ha avuto un grandissimo successo, comunque è stato anche, ha girato parecchio sulle nostre televisioni, sempre in ore tardissime, ma voi se non sapete che se volete vedere dei bei film in televisione dovete rassegnarvi a stare alzati dopo l'una, perché sennò prima vi beccate solo Ivanzina e altre cose del genere. Ognuno ha i registi che si merita, se non ci abbiamo Ivanzina. Abbiamo da un lato Ivanzina, dall'altro i fratelli italiani, che sono due coppie di fratelli, tutte e due per, diciamo, ragioni diverse, micidiali entrambi, ma insomma, il cinema italiano è quello che è. Adesso qualcuno nuovo, giovane, c'è, può nascere qualcosa. Comunque, chiuda questa parentesi. Torniamo a noi. Allora, ripeto, questo era per darvi una idea del clima di questa fantascienza degli anni 50. La fantascienza degli anni 50, però, questa social science fiction, non era così cupa spesso come i romanzi di Orwell, di Huxley, eccetera. Era spesso a volte un po' più leggerina, come dire, nel senso che utilizzava gli stessi temi, diciamo, questa visione di una società futura in cui la tecnologia veniva usata per controllare la gente, quindi non per farla stare meglio ma per farla stare peggio, insomma, diciamo, usava questo tema in modo ironico, satirico, quindi faceva della satira. L'autore forse più interessante di questa nuova ondata della fantascienza degli anni 50 è Robert Shickley, personaggio che forse alcuni di voi conoscono. Anche lì è stato tratto un film una volta da un suo famosissimo racconto che si chiamava La settima vittima, il film si chiamava La decima vittima invece, con una Ursula Andress, mi sembra, il film non era un granché, italiano peraltro, di Petri, credo. Bene, in questo clima comincia a scrivere le sue cose questo giovane, 28, nel 48 aveva 20 anni, quindi negli anni 50 aveva poco più di 20 anni, questo giovane Philip Dick, che era appunto un aspirante scrittore, che scopre che gli pubblicano soltanto fantascienza, e comincia a scrivere romanzi. I suoi primissimi romanzi, grosso modo, non si distaccano dalla media della produzione di quel periodo, sono abbastanza ovviamente interessanti, hanno dei temi personali, certo, ma soprattutto i primissimi racconti. A poco, man mano che si va avanti con gli anni, questo Philip Dick però comincia a dimostrare dei temi che sono suoi, particolari, particolarissimi, non che nessun altro scrittore del periodo li tratti, però lui li tratta in maniera, come dire, proprio molto, diciamo, specifica. E quali sono questi temi? Ma prendiamo, vi racconto rapidissimamente la trama di un libro a caso, deve essere del 58 se non mi sbaglio, il titolo inglese è Time Out of Joint, che è una citazione shakespeariana, niente meno. Time out of joint, il tempo è andato fuori dai cardini, è una battuta che dice a un certo punto Amleto in Shakespeare, ovviamente il normale lettore. È stato tradotto in italiano col titolo completamente diverso, si chiama L'uomo dei giochi a premio, se c'è qualche lettore di fantascienza, vedo che qualcuno c'è, vedo delle teste che fanno sì, quindi si ricorda cos'è. Per chi non lo sa, L'uomo dei giochi a premio è un come il romanzo fatto in questo modo. C'è una piccola cittadina del Midwest americano, ambientazione spesso prediletta da non solo da Dick, ma un po' da tutta la sua science fiction, e questo Regal Gum si chiama, questo personaggio è particolarmente abile nel fare un quiz settimanale che compare su di un quotidiano, parole crociate, domande, non mi ricordo, insomma. E viene sostenuto da tutta la sua famiglia, eccetera, eccetera, dice sì, fa strada, lui tutte le come settimane manda la sua soluzione di questa cruciverba al giornale, no? Non mi ricordo più, c'ha dei premi, delle cose così. E a un certo punto però quest'uomo, si rende conto che alcuni piccoli particolari delle cose intorno a lui non sono come dovrebbero essere, cioè, compaiono dei... lui trova dei pezzi di carta con delle cose scritte, cioè c'è una sorta di inquietudine, cioè intorno a lui sospetta che il mondo non sia così compatto, non sia così normale come dovrebbe essere, e che quindi dietro, a un certo punto lui scopre, mano a mano poi scopre a un certo punto dei, adesso non vi sto a fare tutta la storia, scopre una base segreta, eccetera, eccetera, quindi uno sembrerebbe in certi momenti sembrerebbe che il romanzo sia un normale romanzo, per esempio, di invasione, no? Tipo quello che abbiamo visto l'altra volta, pezzettino, l'invasione degli ultracorpi, il tema dell'invasione era un tema classico della fantascienza di quegli anni, sia in America che in Inghilterra, e invece a un certo punto succede il colpo di scena, ci viene praticamente rivelata questa cosa. Regal Gum ha ragione di credere che vive non in una realtà normale, ma in una realtà fittizia, praticamente costruita. Questa realtà addirittura è stata costruita apposta per lui, cioè è una realtà costruita nel mondo vero, in modo che lui possa fare questi suoi giochi a premio, eccetera, eccetera. Perché? Perché nella vera realtà, nel mondo vero, c'è una terribile guerra contro degli invasori, appunto stranieri galattici, certo, e Regal Gum ha una specie di dote importantissima per questa guerra, cioè è in grado di analizzare e di prevedere le mosse di questi invasori extra terrestri, solo che non può farlo nella sua vita normale. Lui in realtà è uno, non so cos'era, pilota, colonnello, che diavolo sia, dell'esercito, ma ha subito uno shock e un trauma, per cui se lui continuasse a vivere in quel mondo lì, queste sue doti sarebbero inutilizzabili. E allora gli è stata costruita intorno questa realtà fittizia, quindi che è una specie di allucinazione, no? Nella quale lui, risolvendo questi giochi a premio, questi quiz, in realtà fornisce ai comandi strategici, che poi le analizzano, le risposte sugli attacchi di questi invasori, e quindi permette di puntare i cannoni, i missili, i laser, eccetera, eccetera, no? Va bene, quindi la bizzarria di questo romanzo, eccetera, dimostra però che c'è dietro a questo un tema che sarà il tema fondamentale poi di tutta la produzione di questo autore, di questo appunto Philip Dick, e cioè questa: la realtà in cui noi viviamo è veramente una realtà autentica o non è una realtà invece fittizia? O noi non siamo vittima in qualche modo di una allucinazione collettiva, consensuale, in cui il mondo ci appare come è, non perché è davvero così, ma perché le nostre percezioni sono fatte in un certo modo, e quindi al fondo ci sta una diciamo, scoperta che la filosofia, eccetera, aveva già fatto certamente molto tempo prima, aveva fatto già con Schopenhauer, prima ancora con il vescovo Berkeley, nell'Inghilterra del, diciamo, 600, ma un conto sono le riflessioni, con Nietzsche poi, un conto sono le riflessioni di alcuni filosofi, cioè, e un conto invece è, diciamo, la percezione quando un tema diventa popolare in qualche modo. Bene, nella cultura di massa questo tema, questo interrogativo radicale sulla essenza della, diciamo, realtà, direi che fa il suo ingresso, forse non proprio con Dick per, diciamo, la prima volta, ma trova in Dick da quegli anni in poi il suo autore più forte, più, diciamo, pregnante. Questa cosa tra l'altro non le dico io, cioè non le dice, io poi sono un appassionato di fantascienza, tutto sommato molto particolare, forse non sono neanche un, diciamo, appassionato, comunque non le dicono gli appassionati di fantascienza. C'è tutta una generazione, un gruppo di filosofi contemporanei francesi che si chiamano Baudrillard, che si chiamano Lyotard, che si chiamano Virilliot, che sono personaggi importantissimi della scena culturale contemporanea, i quali hanno preso i libri di Dick e hanno, diciamo, ricavato da questi libri ulteriori elementi, da questi libri come da quelli di Ballard, come da quelli di alcuni altri pochi scrittori, quasi sempre di, dice, fantascienza, però hanno ricavato alcune considerazioni proprio su questo tema della soggettività del mondo, diciamo, reale. È chiaro che quando noi andiamo a, come dire, affermare, a, diciamo, renderci conto o ad affermare che la, diciamo, realtà non è di per sé oggettiva, cioè non ha una oggettività, non ha una esistenza del tutto autonoma di fronte a noi, ma è principalmente un fatto percettivo, è principalmente un fatto della, come dire, percezione, cioè quindi è in qualche modo un fenomeno soggettivo. Beh, è chiaro che da quel punto in poi ci possiamo chiedere se questa, diciamo, questa soggettività, questo carattere percettivo della realtà sia anche lui autonomo oppure non possa essere in qualche modo, in qualche maniera manipolato dall'esterno. E da questo, diciamo, interrogativo vengono fuori altri, come dire, interrogativi che Dick si pone nel corso della sua opera, in continuazione fino alla fine della sua vita, e che sono, per esempio, chi è l'uomo? Perché l'uomo è quello che è e la macchina, per esempio, è diversa da lui, e, diciamo, le macchine sono diverse dal vivente in genere, non soltanto dall'uomo, ma anche da, diciamo, chi vive. Perché la storia è quella che è e non è invece un qualche cosa di completamente diverso? Perché i fatti e i fenomeni si sono succeduti come si sono succeduti? Cioè, in pratica, si potrebbe dire quindi che Dick rappresenta nella fantascienza l'equivalente di quello che nella filosofia è stato chiamato in qualche modo l'irrazionalismo, cioè, diciamo così, la fine della fiducia che la ragione possa spiegare in maniera coerente tutto il mondo, che possa darci una visione e una immagine precisa del mondo alla quale possiamo attenerci e alla quale possiamo, e sulla quale possiamo far conto anche per programmare la nostra vita. È l'ingresso nella, appunto, fantascienza e nella cultura popolare di un atteggiamento filosofico che è quello del dubbio, diciamo, radicale, un dubbio, come dire, radicale ben più forte di quello di Cartesio, il quale aveva usato il dubbio, no? Il famoso dubbio che poi lo avrebbe portato al cogito ergo sum, in fondo quasi solo come espediente per arrivare poi a questo cogito ergo sum, che quindi dovrebbe in qualche maniera tranquillizzarlo. Se, diciamo, Cartesio pensa dunque è, invece Dick fa proprio come il contrario, cioè per Dick l'uomo pensa e quindi non può essere sicuro di essere, proprio perché pensa. I più interessanti, forse i più bei romanzi di Dick, almeno quelli che la critica considera come i romanzi più belli, sono stati scritti tutti fra il 1961, 62 e 64, siamo in anni così, si chiamano The Simulacra, I Simulacri, The Man in the High Castle, L'Uomo nell'Alto, diciamo, Castello, che è stato tradotto in italiano come La Svastica sul Sole, la svastica sul sole, di questo ne parleremo adesso un attimo, The Three Stigmata of Palmer Eldritch, le tre stimmate di Palmer Eldritch, le tre stimmate di Palmer Eldritch, il nome è un po' strano, quindi ve lo scrivo a... e Martian Time Sleep, che sono tradotto come Noi Marziani. In tutti questi, diciamo, romanzi, i temi, la, diciamo, tematica fondamentale di Dick si precisa in un senso, come dire, ancora più forte di quello dei suoi romanzi precedenti. Qui Dick addirittura giunge a mettere in discussione non soltanto, come dire, la realtà fisica che ci, diciamo, circonda, ma addirittura l'esistenza, l'unicità dell'universo in quanto tale e dello svolgersi della storia. Nei primi anni del secolo, una volta, James Joyce, quello di cui vi ho letto la prima volta quel brano quasi incomprensibile dal Finnegan's Wake, comunque è uno dei più grandi romanzieri del Novecento, James Joyce aveva detto: la storia è un incubo da cui cerco di svegliarmi. Bene, una frase del genere si potrebbe dire per questo gruppo di romanzi di Dick. Vi parlerò in particolare di The Man in the High Castle, la svastica sul sole, perché è quello più chiaro forse da questo punto di vista. Nella svastica sul sole ci viene presentato un mondo nel quale le cose della Seconda Guerra Mondiale non sono andate come noi, diciamo, sappiamo. La Seconda Guerra Mondiale è stata vinta dall'asse Berlino-Tokyo, che ha ovviamente presto liquidato Roma come una cosa secondaria, per cui gli Stati Uniti, che hanno perso la guerra, si sono, e ovviamente anche quindi l'Unione, diciamo, Sovietica, che è scomparsa, ma gli Stati Uniti sono stati divisi in due grandi parti: la parte est, che è sotto il, diciamo, dominio tedesco, e la parte ovest, che è sotto il dominio giapponese. Il romanzo si svolge nella parte ovest, cioè nella parte a, diciamo, dominazione giapponese. C'è una specie forse di governo, però un governo, insomma, fantoccio, praticamente controllato dagli invasori giapponesi. La cultura giapponese domina complessivamente quella parte del mondo, poi ci sono contrasti ovviamente col vecchio alleato che è la, diciamo, Germania, e gli americani vivono, insomma, fanno dei lavori marginali, non sono la classe, diciamo, dirigente. In particolare questi, diciamo, giapponesi vanno pazzi per i vecchi oggetti di artigianato storico americano, quindi per esempio collezionano pistole dell'Ottocento e dei primi del Novecento, vecchie Colt, film, western, eccetera, eccetera, e c'è fra gli americani chi vive di queste cose, cioè chi vive vendendo, cercando, anche fabbricando falsi oggetti di questo tipo per i giapponesi. Ma contemporaneamente la cosa strana è questa: in questo mondo, in questo, diciamo, universo, quindi che non è un universo come il nostro, si potrebbe dire in qualche modo che è un universo parallelo, no? Un qualche cosa di vicino, insomma. Qualcheduno ha scritto un libro, c'è uno scrittore che si chiama Wolfgang Abelsen che ha scritto un libro, il libro si chiama The Grasshopper Lies Heavy, la cavalletta ci opprime, è una immagine biblica, e in questo romanzo lo scrittore Abelsen si immagina un mondo in cui la Seconda Guerra Mondiale non è stata vinta dall'asse Berlino-Tokyo, ma dagli alleati Stati Uniti, Inghilterra e Francia insieme con l'Unione Sovietica, in cui quindi la, diciamo, Germania è stata appunto sconfitta, il nazismo, diciamo, ridimensionato, Hitler si è ammazzato, eccetera eccetera, e uno dice: ma guarda, dice, questo è il nostro mondo, dice il, diciamo, lettore, c'è una inversione, cioè lì vivono in un mondo fittizio e credono che sia fittizio, cioè inventato, il mondo nostro. In realtà c'è una lieve sfumatura, nel senso che in questo mondo che viene descritto nel libro, subito dopo la guerra, gli Stati Uniti hanno rapidamente provveduto a regolare i conti anche con l'Unione Sovietica, la quale è stata, diciamo, sconfitta, quindi non c'è in realtà guerra fredda in quel mondo, come c'era invece negli anni nel 62, che è l'anno in cui Dick scrisse questo libro. E a un certo punto a uno dei personaggi giapponesi che vive a, diciamo, San Francisco, durante una, come dire, passeggiata, ha una curiosissima visione, rapidissima, un, diciamo, flash, di una San Francisco completamente diversa da quella ordinata, tranquilla che conosce lui, assolutamente caotica come, diciamo, vita. E noi in questa San Francisco illusoria per il giapponese Tagomi vediamo invece un ovvio, diciamo, ritratto della San Francisco, di come cominciava ad essere San Francisco in quegli anni. Quindi c'è questo curiosissimo gioco di piani, diciamo, narrativi, per cui a un certo punto, vabbè, insomma, non si sa bene più che cosa sia reale, che cosa sia immaginario. Insomma, quello che Dick vuole dirci con questo romanzo è che anche la storia è in fondo una cosa, diciamo, relativa, può essere scritta, riscritta, può essere vista da punti di vista, diciamo, diversi, ed era già in fondo una cosa che aveva detto George Orwell proprio nel suo romanzo 1984, in cui forse alcuni di voi ricorderanno, se lo hanno letto. Esiste addirittura un ministero chiamato Ministero della Verità, con un'antifrasi, perché il ministero della, invece, menzogna, della bugia, nel quale schiere di impiegati, tra cui il, cioè, protagonista, sono, diciamo, appunto, impiegati per riscrivere di mese in mese, di anno in anno, la storia. La storia, il passato non c'è più, viene riscritto costantemente. Ora, il gioco di Dick è più sottile e più complesso di quello di Orwell, perché mentre Orwell ci stava dicendo semplicemente che il potere brutalmente cancella il passato e riscrive la storia come vuole lui, di volta in volta, quindi cambiandola secondo gli umori del momento, eccetera, Dick addirittura ci suggerisce che non ci potrebbe, che forse potrebbe addirittura non esserci nessuna storia, che la storia in cui noi viviamo potrebbe essere una delle possibili linee di sviluppo, linee evolutive del succedersi degli accadimenti umani, ma che tutto sommato a un certo punto, ad ogni momento, quando uno fa una scelta, piccola o grande che sia, questa scelta non è, diciamo, predeterminata, ma addirittura non è determinata al punto tale che probabilmente c'è un, diciamo, universo, e quindi infiniti universi accanto a questo. Per esempio, c'è un universo nel quale io stamattina non ho portato il registratore e quindi non mi sto registrando, c'è un universo in cui voi siete seduti e qua, qua dalla parte mia c'è una bellissima signorina che vi racconta cose molto più interessanti di quelle che vi racconto io. Ci sono altrettanti universi in cui ognuno di voi non studia all'Istituto Europeo ma studia in altre scuole, e così via. Questa idea poi non è, diciamo, certamente tipica di Dick, grosso modo negli stessi anni, cioè alla fine degli anni 50, l'aveva usata niente meno che un grande scrittore come Jorge Luis Borges, l'argentino semiceco che è morto alcuni anni fa, come voi sapete, e che non ha mai vinto il premio Nobel, il che dimostra quanto poco serio sia il premio Nobel, il quale scrisse proprio in quegli anni un racconto che si chiama Il giardino dei sentieri che si biforcano, e chi non lo ha letto, io vi consiglio di leggere Borges in genere, ma vi consiglio in particolare di leggere questa raccolta di racconti che si chiama Finzioni, e l'ultimo di questi racconti si chiama Il giardino dei sentieri che si biforcano, Il jardín de los senderos que se bifurcan, e in cui c'è una storia gialla molto appassionante, e in cui ci sono due finali alternativi, e noi non sappiamo mai chi avrà ucciso chi in questo racconto di Borges, proprio perché ci sono degli universi, cioè quelli che nella fantasia si chiamano gli universi paralleli. Bene. Quindi Dick scrive, appunto, in quegli anni questi libri, dopodiché viene una fase che la critica, alcuni critici tendono a considerare una fase di una produzione minore, cioè ancora in cui Dick, approfondendo e radicalizzando questi temi, fa delle cose ancora più sconvolgenti, tra cui il culmine è un romanzo del 1969 che si chiama Ubik. Non so se qualcuno di voi sente o ascolta una radio locale qua di Milano che si chiama Radio Popolare, che ha una trasmissione quotidiana che si chiama Ubik proprio. Ubik deriva ovviamente dal, diciamo, latino ubicus, è scritto Ubik con il K, Ubik con il K. In questo romanzo di Dick succedono delle cose ancora più strabilianti di quelle che insomma, succedevano in questi romanzi dei primi anni, diciamo, 60. La diciamo, realtà non esiste proprio più, cioè si sfalda in continuazione nelle percezioni dei con personaggi, i quali saltano dal presente all'America degli anni 30, a una diciamo, stazione orbitale sulla Luna. Non sanno più neppure se sono vivi o se sono in animazione sospesa in certe bare, in certe cose criogeniche, diciamo raffreddati, e quindi non sanno se quella vita che stanno vivendo è la loro vita o è un sogno o è una sorta di diciamo allucinazione. È un testo molto bello e molto interessante, e soprattutto aleggia questa presenza di questo Ubik che non si sa se sia Dio, se sia una marca di lavatrici, se sia, perché a un certo punto questo Ubik si confonde, è una presenza costante nel libro che però non si capisce bene che cosa sia. Ogni tanto appare sotto forma di messaggi pubblicitari in cui si pubblicizzano prodotti più strani. Bene, è un testo molto interessante pure su questo. L'anno prima, nel 1968, invece, Dick scrive un romanzo dal titolo curioso, che è questo. Do Androids Dream of Electric Sheep? Gli androidi sognano pecore elettriche? Che è stato che quello che è stato tradotto in italiano come Il cacciatore di androidi. In questo titolo ci sono già alcune parole chiave di tutta la questione di intanto ci sono gli androidi, poi c'è questa elettricità associata con un animale e poi ovviamente c'è la parola sogno che è fondamentale per comprendere gran parte dell'universo di Chiano. Gli androidi. L'androide è una trasformazione, è il nome che veniva dato a certi automi del Settecento molto perfezionati con fattezze umane che facevano alcune cose limitate, per esempio suonare il piano, come alcuni di voi sanno di questi androidi che ancora stanno, ce n'è due o tre che stanno in Svizzera. Non mi ricordo più dove, in un paesino che si chiama e che suonano ancora, c'è un androide che suona, un androide femmina che suona al piano, cioè che ha degli ingranaggi per cui le fanno muovere le dita e lei suona una dozzina di pezzi diversi. Bene, Dick prende questo nome per indicare quello che altri autori, ma Asimov l'aveva fatto, quello che altri autori avevano indicato col nome di robot umanoidi, cioè i robot perfezionatissimi con, quindi diciamo totalmente sintetici come esseri, niente affatto umani, ma con un aspetto esteriore uguale in tutto per tutto a quello dell'uomo e con delle funzioni, tra cui l'intelligenza, uguali o addirittura, dice Dick in questo libro, per certi versi superiori a quelle umane. La parola elettrico per Dick, ricordiamoci che siamo nel 68, quindi ancora non c'è stato il grande scoppio dell'elettronica, certamente ci sono già i primi computer, eccetera, ma non c'è ancora il personal computer, ci sono certamente gli hi-fi, ma insomma l'elettronica, quindi lui usa questa parola elettrico invece di, diciamo così, elettronico per dire qualcosa di simile. Una pecora elettrica è una pecora simulata, non è una pecora vera. È una pecora che simula in tutto e per tutto, anche lei, le funzioni di una pecora, quindi in particolare magari può addirittura mangiare, può così fare tutte le cose che sono connesse anche con l'attività, diciamo, alimentatoria, ma non è una vera pecora. C'è un altro bellissimo racconto di Dick che si chiama appunto The Electric Ant, la formica elettrica, in cui appunto c'è questa idea. Quindi c'è, si diciamo, suggerisce che accanto alla vita come noi la conosciamo, quella di uomini e di animali, ci sia un'altra forma degli altri esseri che non sono veramente dotati di vita, che sono appunto degli animali, diciamo, elettrici e questi androidi addirittura. E poi c'è il sogno. In realtà, se uno legge il libro può anche non, diciamo, capire, forse, perché non c'è nulla diciamo, nel libro che direttamente faccia pensare, non è che questi androidi dicono mai ho sognato una pecora, diciamo, elettrica, ma in pratica l'interrogativo è una specie di, diciamo, di domanda, che potrebbe essere una, come dire, metafora per un'altra, diciamo, domanda, che potrebbe essere formulata così. Direi la formuliamo in inglese, tanto per... Is androids realize? Quella degli androidi è davvero vita? Perché se gli androidi potessero veramente sognare, addirittura di questi altri animali, anch'essi artificiali come loro, potrebbero. Ora, se qualcuno di voi ha visto il film, cioè chi di voi ha visto il film di Blade Runner, sa che Ridley Scott dà una risposta a questa domanda, fondamentalmente, e la sua risposta è sì. La risposta di Dick nel libro è no. Anche se con tantissime, diciamo, riserve, no? Anche se con molte... Però nel libro, nel, diciamo, romanzo, Dick assume, come in moltissimi altri libri di questo stesso periodo e di dopo, l'androide come simbolo di tutto quello che c'è di, diciamo così, inumano addirittura nell'uomo. Abbiamo detto, le tre grandi domande di Dick possono essere in grosso modo riassunte così, diciamo: che cos'è la realtà? In realtà ci possono essere dietro degli interrogativi di questo tipo. Per questo, nei romanzi di Dick, come in molte cose spesso, no, c'è sempre una struttura oppositiva, no, di opposizione. Per esempio, l'interrogativo che cos'è la realtà porta ovviamente a chiedersi se ci sia un qualche modo di distinguere tra la realtà e l'illusione, no? Quindi tra quello che è reale e quello che non lo è. Il chiedersi che cos'è la vita indica, se porta a chiedersi se ci sia una distinzione tra ciò che è animato e ciò che è inanimato. Che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo è la, diciamo, la domanda più, diciamo, radicale, cioè tutto questo naturalmente noi quando ce lo chiediamo, era un po' difficile che questo insieme di cose, questo insieme di, diciamo, domande si potesse presentare nello stesso modo, mettiamo, nella Grecia omerica, no? Cioè, o in una, diciamo, civiltà la quale non conosce una tecnologia così, così avanzata. Il tipo di domanda che Dick si pone sulla umanità dell'uomo è possibile nel momento in cui sono presenti nel mondo o sono percepibili o sono pensabili, sono in arrivo, stanno nel nostro prossimo futuro, per esempio, delle cose create dall'uomo e che fanno alcune delle funzioni tradizionalmente umane. Certamente oggi, non, anche oggi nel 1991, l'anno in cui siamo ora, non si può dire che ci siano delle cose di questo tipo, però è almeno alcuni anni che ci vengono promesse. Quando sicuramente voi conoscete il termine di intelligenza artificiale, no? È un termine che ormai sta girando, sta insomma, circolando, eccetera. C'è un certo numero abbastanza grande di scienziati nel mondo al lavoro su questo progetto. Costruire delle macchine, più che delle macchine, costruire, fare dei programmi di computer, perché grosso modo il problema dell'hardware non è un grossissimo problema, ma costruire, scrivere dei programmi di computer che dal punto di vista pratico, degli effetti pratici, abbiano la stessa valenza del comportamento umano in certe circostanze. Cioè, quindi, detto insomma terra a terra, costruire dei, come dire, programmi che abbiano, che incorporino in sé, se non tutto il pensiero umano, alcune delle funzioni del pensiero umano. E già oggi alcune macchine di questo tipo ci sono, voi sapete, sono quelli che si chiamano i sistemi esperti, che uno lo può vedere come diavolo vuole, ma in qualche modo svolgono una funzione che fino a ieri avremmo detto che era intelligente, cioè tipica dell'uomo. Cosa fanno questi insomma, sistemi esperti? Poi non sono cose fuori dal mondo, sono cose che state, prendono un campo particolare ristretto della conoscenza umana, che potrebbe essere la diagnosi di certe malattie o che ne so, certe tendenze economiche, e sulla base di una grandissima quantità di dati e di alcune regole di ragionamento diciamo meccanico, non di ragionamento, cioè regole che si possano comunicare ad un computer, sono in grado di fare alcune delle cose che normalmente alcune categorie di professionisti umani fanno, per esempio formulare diagnosi su certe malattie, per esempio formulare previsioni economiche a breve termine. Come fa per esempio un sistema esperto a fare nel campo della medicina a fare una diagnosi? Beh, intanto gli vengono comunicate una grande quantità di dati, cioè di dati vuol dire di diagnosi precedentemente effettuate dagli esseri diciamo umani. Ora, una diagnosi cos'è? È una correlazione tra un insieme di sintomi, è una diciamo attività assolutamente semiotica, no? Se ne accorse più o meno in quegli anni che come ci sono delle macchine o potrebbero esserci delle macchine che non sono umane ma si comportano come l'uomo, simulano il comportamento umano, quindi hanno una qualche forma di intelligenza e forse anche embrionalmente qualche forma di emozione, cioè come la...